Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 8 altra genealogia di Beniamin, e di Sol, e dei figliuoli di lui. Beniamin generò Baie suo primogenito, Asbel secondo, terzo Ara, Noah quarto, e Rafa quinto. Furono figliuoli di Baie, Adar, e Gera, e Abiud, e anche Abisue, e Naman, e Aoe, e oltre a questi Gera, e Shepufan, e Uram. Questi sono i figliuoli di Aod, principi delle famiglie degli abitanti di Gabaa, i quali furono trasportati a Manat. E i furono Naman, e Achia, e Gera, Aoili stesso, che li trasportò, ed egli generò Ozza, e Aiud. E Saraim, avendo ripudiate le sue mogli Usim, e Bara, ebbe dei figliuoli nel paese di Mob. E la sua moglie Odes gli partorì Jobab, e Sebia, e Mosa, e Molcom, e anche Jeus, e Secchia, e Marma. Questi sono i suoi figliuoli capi delle loro famiglie. Meusim generò Abitob, ed Elfal. Figliuoli di Elfal, Eber, e Misam, e Samad, questi edificò Ono, e Lod, e i luoghi, che da queste dipendono. Baria, e Sama capi delle famiglie abitanti in Ayalon, questi scacciarono gli abitanti di Get. E Aio, e Sesac, e Gerimut, e Zabadia, e Arod, ed Eder, e anche Michael, e Jesfa, e Ioa figliuoli di Baria, e Zabadia, e Mosollam, e Ezeci, ed Eber, e Yesamari e Geslia, e Jobab, figliuoli di Elfal, e Yacim, e Zecri, e Zabdi, ed Elioenei, e Seletei, ed Eliei, e Adaia, e Baraia, e Sainarat, figliuoli de Semei, e Jesfam, ed Eber, ed Eliei, e Abdon, e Zecri, e Anan, e Anania, ed Elam, e Anatotia, e Gifdaia, e Fanuel, figliuoli di Sesac, e Samsari, e Soria, e Otolia, e Yersia. Ed Elia, e Zecri, figliuoli di Geroam. Questi sono i primi padri, e i capi di famiglie, che abitarono in Gerusalemme. In Gabaon poi abitarono Abigabaon, la di cui moglie ebbe nome Macia. E il suo figlio al primogenito Abdon, e Sur, e Cis, e Bal, e Nadab, ed anche Gedor, e Aio, e Zacher, e Macellot, e Macellot generò Samaa. E questi abitarono coi loro fratelli in Gerusalemme di rimpetto agli altri loro fratelli. Ner poi generò Cis, e Cis generò Sol. E Sol generò Jonata, e Melchisua, e Abinadab, ed Esbal. Figliuolo di Jonata fu Meribbaal, e Meribbaal generò Mica. Figliuoli di Mica, Fiton, e Melech, e Tara, e Aaz generò Ioada. E Ioada generò Alamat, e Asmut, e Zamri. E Zamri generò Mosa, e Mosa generò Banaa, di cui fu figliuolo Rafa, da cui nacque Elasa, il quale generò Asel. E Asel ebbe 6 figli, i nomi dei quali sono questi: Ezricam, Bocru, Ismael, Saria, Obdia, e Anan, tutti questi figliuoli di Asel. I figliuoli poi di Esek suo fratello furono Ulam primogenito, Jeus secondogenito, e Lifas terzo. E i figliuoli di Ulam furono uomini fortissimi, e di gran valore, abili arcieri, che ebbero molti figliuoli, e nipoti, cioè, fino a 150. Tutti questi son figliuoli di Beniamin. Note, 8,1, Beniamin generò Beileci. Si descrive di bel nuovo più copiosamente la genealogia di Beniamin sì per ragione di Sol, nella persona del quale cominciò la dignità reale, e sì per dare una piena notizia di questa tribù dopo il ritorno dalla cattività di Babilonia, impero che molti di quelli che son qui nominati si leggono. I. E. S. D. E. Capitolo 10, 2, 8,6, i quali furono trasportati a Manat. Nel paese di Giuda. Questo però seguì dopo il ritorno dalla cattività. Aod Credesi, il famoso giudice di Israele, i di cui discendenti sono nominati, V7. 8,28. Questi sono i primi padri che abitavano in Gerusalemme. Si è altrove notato come Gerusalemme almeno per una parte spettava alle tribù di Beniamin, prima di poi e la fu di Giuda. 8,33. Ner generò i Cinera ve anche il nome di Abiel, 1.regnono.1. 8,40. Abili arcieri. I Beniamiti, e particolarmente quei di Gabaa, sono lodati per la particolare loro destrezza nel maneggiare l'arco. Vedi Giud. 20, 16.